Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Il confronto tra il nostro calcio e la Coppa Campioni sta diventando sinceramente imbarazzante, per non dire avvilente. È vero che ieri sera c'è stata una squadra italiana che ha fatto una ottima figura all'estero, ed è quella però che è arbitrale, capitanata da Rizzoli a Londra per Arsenal Barcellona. Se sentite qualche rumore di fondo non vi preoccupate, Radio 24 è la radio ufficiale della BIT, della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Oggi stiamo trasmettendo dallo stand della fiera per l'appunto del Turismo Internazionale di Milano, e quindi se c'è qualche rumore di fondo è perché di gente qua ce n'è davvero parecchia. Collegato con noi c'è già Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, ma sbaglio oppure lo Shakhtar Donetsk e quindi la squadra che ieri sera ha disposto quasi a suo piacimento la Roma all'Olimpico era ferma dall'8 dicembre, cioè dalla bellezza di 70 giorni? Corretto, perché lo Shakhtar proprio nella conferenza stampa di presentazione Lucetto ha detto un po' di temere tutto questo periodo di desuetudine, no? Questo periodo molto molto lungo. Insomma, per fortuna che erano desueti dall'agonismo, perché altrimenti avrebbero già chiuso completamente i conti, o forse che non l'abbiano già fatto. Onestamente credo che l'arachiri della Roma sia stato clamoroso. Faccio una piccola coda a quello che hai detto tu prima per la classe arbitrale, perché questa mattina il Mondo Deportivo, dimostrando credo anche poca sportività, ha addossato a Rizzoli la colpa della sconfitta del Barcellona all'Emirates, tra l'altro etichettandolo come amico di Mourinho. Cioè, tu pensa a che livello siamo: Rizzoli sarebbe amico di Mourinho e quindi avrebbe fatto perdere il Barcellona, cioè roba da veramente da lasciar perdere. Sì, triste. Cosa, vabbè, sgombriamo subito da questo capitolo. Che cosa sarebbe imputabile a Rizzoli? L'annullamento del gol del raddoppio? Beh, insomma, tanto semmai all'assistente, poi stiamo parlando comunque di millimetri più che di centimetri, credo. Sì, questa in particolare, poi diciamo la gestione complessiva, l'ammonizione a Piqué, c'è tutta una serie di cose che credo siano, che facciano parte di quel folklore, perché va preso poi come tale. Quando il giornalismo è militante perde totalmente di credibilità, e va bene così, e forse ho sbagliato io anche a citarla questa cosa, però insomma c'è tanto vale. Senti, restiamo all'Emirates. Ho parecchi messaggi di ascoltatori che scrivono. Ieri sera ogni tanto, cioè, era tale, soprattutto quando nel secondo tempo sembrava cristallizzato il 3-1 e nella fine del primo qualcuno dice di avere scanalato, come si usa dire, verso Londra, e di aver visto, io perlomeno, ma per me non è più una novità, ho avuto l'impressione non tanto di un'altra partita quanto di un'altra disciplina sportiva. Sì, devo anche dirti che aiuta molto il contesto. Cioè, l'Emirates è un posto dove anche le inquadrature televisive sono favorite, cioè è veramente io ogni tanto insisto su questo tasto, ma non credo di sbagliare tantissimo, che comunque anche le recite dei grandi attori, sia di teatro che di cinema, vadano contestualizzate in un grande teatro e in una grande pellicola. E io credo che il complesso dell'immagine che esce dall'Emirates sia un complesso bello. Certamente poi il tutto diventa più bello se è espresso un calcio del genere. Credo che ancora una volta il Barcellona abbia dimostrato qual è il suo vero limite, e qui invece parliamo di una stampa non militante, che è quella di Marca. Marca ha notato come nelle quattro sconfitte della stagione del Barcellona, una col Betis, una col Siviglia, una con l'Hercules e una con l'Arsenal, la costante sia stata l'assenza di Charlie Pujol. Cioè è lui il vero anello, in questo caso debole se manca, cioè anello forte nel caso opposto. Sì. E infatti il titolo di Marca è Pujol dependencia, cioè la dipendenza da Pujol, che fa abbastanza ridere se vogliamo in una squadra come il Barcellona, che è unanimemente riconosciuta come una macchina da spettacolo, considerare Pujol in questo momento più importante di Leo Messi. Però la partita di ieri ha mostrato ancora una volta che se non hai un grande portiere certe partite le puoi perdere, e che se non chiudi il calcio ti può anche condannare, perché insomma, tante volte il Barcellona ha avuto la palla del 2-0, se fossimo nel tennis, e l'ha lasciata lì, e l'Arsenal questa volta non ha sbagliato. Sì, fermo restando che c'è una partita di ritorno da giocare, che il Barcellona comunque ha segnato un gol fuori casa e che quindi l'1-0 lo qualifica, insomma da lì in su. Però è vero, tutto quello che hai detto è oggettivamente vero ed è stato notato appunto da un pubblico sempre crescente, perché è inevitabile che sempre più alta sia la domanda di calcio spettacolare, a differenza di quello che si vede alle nostre latitudini. Dicevo di una prova avvilente la Roma anche da un punto di vista atletico, cioè in genere una squadra che riparte dopo 70 giorni di ruggini, non dico che atleticamente debba cedere, magari è più brillante all'inizio, però è difficile che possa esibire una superiorità di corsa e di presenza psicofisica in campo superiore a chi invece sta giocando da mesi, che può essere un pochino più logoro, ma insomma il ritmo lo dovrebbe avere. Invece ieri sera dal primo all'ultimo minuto sulla palla c'erano sempre gli ucraini e mai i romanisti. Io comincio a convincermi ormai definitivamente che il vero logorio sia quello mentale e la vera ruggine sia quella nella testa, perché la Roma ieri aveva tutte le condizioni per fare una grande partita e si è sgonfiata appena ha visto che il vento stava leggermente girandole contro, anzi leggermente, insomma le era girato contro sull'autogol di De Rossi. Noi lo consideriamo ancora un autogol, perché effettivamente in quel momento la Roma è sembrata nuda e non ha una motivazione logica e psicologica se non con il contesto ambientale, il contesto societario, il contesto della gestione di Ranieri. Ieri abbiamo anche mostrato, lo stiamo facendo anche oggi su Sky Sport 24, questo labiale di Borriello che dice: ma come questo tiene fuori me che ho segnato 25.000 gol? Insomma, sono situazioni anche di cattiva educazione complessiva che sono il vero nemico in questo momento rispetto a una condizione fisica che comunque effettivamente, come hai fatto giustamente notare, era inferiore allo Shakhtar. Sì, fermo restando che già che c'era avesse detto anche solo 24.000, sono i giorni di Sanremo, era come i baci di Celentano, almeno ci sarebbe stato un rimando, non dico culturale, ma insomma di qualche costume, no? Di qualche, cioè, d'altra parte non, gli intellettuali da Borriello poi si può pretendere fino a un certo punto. Chiuderei, Fabio, con un breve cenno a un altro test Italia-Resto d'Europa che tra poche ore alle 19 va in scena a Napoli. Dove mi auguro che l'entusiasmo del pubblico sia in questo caso un propellente vero e non di nervosismo come è accaduto ieri all'Olimpico. Napoli sta aspettando questa partita con uno spasmo incredibile. Mi dicono amici napoletani che già la zona del San Paolo è completamente off limite e bisogna parcheggiare a chilometri per andare per avvicinarsi allo stadio. Mazzarri ha sottolineato che non farà turnover e aggiungo io, ci mancherebbe, perché non può pensare che Napoli-Villarreal sia meno importante di Napoli-Catania di domenica sera e insomma tutti sulle spalle di Cavani ancora una volta. Credo che non parta Hamsik dal primo minuto, sono molto curioso di vedere Giuseppe Rossi e Nilmar come coppia d'attacco. Il Villarreal è forse in leggera flessione, anzi senza forse, in leggera flessione in campionato. L'occasione è davvero buona, anche perché insomma le prime due partite in casa delle italiane sono state 0-2, cioè due sconfitte, e a questo punto anche per quel famoso quoziente UEFA che tanto interessa a quelli che poi si riempiono la bocca il giorno dopo, sarebbe anche il caso qualcosina di raggranellarlo, in attesa naturalmente dell'Inter contro il Bayern di Monaco la prossima settimana. Di provarci seriamente. Grazie Fabio Tavelli. A voi, buona giornata. Chiudiamo questa settimana di collegamenti con Sky Sport 24 per seguire tempestivamente ogni giorno gli sviluppi europei. Facciamo un primo intervallo per sentire come va sulle strade. Leggo dal display che molti ascoltatori si lamentano per la qualità dell'audio, per il rumore di fondo, è vero. Dice: da dove trasmette oggi, caro Garanzini? Scrive Sergio. Trasmetto dalla BIT, l'ho detto all'inizio, lo ripeterò più tardi. La BIT è la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Radio 24 è la radio ufficiale di questa borsa, di questa fiera del turismo internazionale, tra l'altro, e quindi il rumore di fondo, visto che questa fiera è veramente molto frequentata, è inevitabile. Per un giorno vorrà dire che la qualità dell'audio sarà, come dire, meno felice, meno buona, ma in compenso però testimonia di dell'inserimento in una realtà e tra l'altro di particolare prestigio, direi. Ci sono già degli ascoltatori collegati. Io prima vorrei soltanto dar conto anche dell'esito, vabbè, che conoscete a memoria, ma insomma di questa vittoria del Genoa nel derby genovese e di quella dell'Inter nel recupero di Firenze, che ha, non dico azzerato, ma ha di molto ridimensionato la portata negativa della sconfitta interista di Torino domenica sera, perché l'Inter è comunque arrivata a 5 punti dal Milan e, insomma, viste le condizioni di forma rispettive delle due squadre, mi pare che la partita al vertice sia apertissima e sia a 3, quindi non soltanto Milan e Napoli, ma a pieno titolo anche l'Inter. Delle voci da ascoltare, però, ereditate dalla serata di ieri, quella che proporrei è quella inedita in un certo senso, visto che credo fosse, anzi sono certo che sia stato il suo primo gol ufficiale in campionato, a Marassi nell'occasione più importante, quindi sentirei Rafinha. Marcare così, segnare così, non derby è sempre importante. Io ce l'ho fortuna in derby, né? A Germania, quando giocavo lo Schalke, ha segnato anche a Brasile, anche sono contento, però dobbiamo lavorare perché dobbiamo fare più punti per stare in un buon posto nella classifica. Questa squadra è bellissima, è un ambiente bellissimo qua, però dobbiamo lavorare ancora, che è sempre buono vincere, però dobbiamo lavorare che domenica già c'è altra cosa. Però sono troppo felice per questo gol. Questo gol io voglio anche parlare che è per mio fratello. Marcello, abbraccio. E questo, vi ripeto, era Rafinha, il protagonista del derby di Genova che si è tinto di rosso-blu. Massimo, chiamato dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, dica, se le faccio questa domanda, che è riguardante il recupero in particolare degli esseri dell'Inter. Una curiosità, volevo sapere per quale ragione l'altra volta, quando c'era Inter Cesena, non ha potuto giocare Ranocchi e Pazzini, perché dicevano che si trattava di un recupero di dicembre, mentre ieri sera hanno potuto giocare, visto che si trattava ancora di un recupero di dicembre. La ringrazio. Massimo, non lo so, non le so rispondere. Se hanno giocato e se non è stata presentata riserva scritta da parte della Fiorentina, è evidente che potevano. Perché potessero o perché non si potesse, bisognerebbe chiederlo a chi ha scritto le regole del nostro calcio, il calendario della Lega e tutte le demenzialità sortite che ne conseguono. Io le garantisco che non sono responsabile, e non sono responsabile, caro Andrea, nemmeno appunto di questo frastuono di fondo che oggettivamente c'è, perché Andrea scrive, dice: ma state trasmettendo la BID di Milano o l'autodromo di Monza? E la domanda mi pare che ci possa stare mano a mano che passano i minuti. Proprio da Monza, anzi dalla provincia di Monza, sta chiamando Marcello. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, la seguo sempre appena posso, sono un suo grande stimatore. Vengo brevemente a farle due domande velocissime. Dunque, una inerente alla partita della Roma di ieri sera, e volevo un suo parere. Ma secondo lei, come mai a febbraio le nostre squadre, quindi in generale italiane, quando arrivano in questo periodo hanno un calo così vistoso di forma atletica? E poi un'ultima cosa riguardo al comportamento falloso e scorretto di Gattuso nella partita precedente, del giorno precedente, col Tottenham. Io spero che l'UEFA adotti una misura esemplare per quel comportamento che ci danneggia come immagine nel calcio italiano in Europa e nel mondo. Come del grazie resto... Marcello. Sì, grazie. Grazie Marcello. Dunque Gattuso verrà sentito lunedì all'UEFA e poi giudicato. Fabio Tavelli prima parlava di 3 giornate, mi sembrano poche, molto poche. Io presumo che saranno di più e presumo che andranno dalle 5 in su, come sarebbe giusto per una mancanza così grave, soprattutto così reiterata, e con sanzione aggravata perché capitano, così in genere recita la dizione dei comunicati. Quanto al calo vistoso che giustamente lei ha individuato nelle squadre italiane in questo periodo, io sinceramente non glielo so dire. So che un giorno o l'altro proviamo con un preparatore atletico, magari sono discorsi già fatti, ma che tanto vale ogni tanto ripassare. Vediamo prima come se la cava stasera il Napoli e poi come se la cava l'Inter, poi aspettiamo i ritorni, e se, come spesso accade, certamente non l'anno scorso ma come spesso è accaduto nel passato recente, all'inizio della fase eliminatoria e non più di quella a gironi, le squadre italiane salutano la compagnia, forse varrebbe la pena proprio di interrogarsi specificatamente da questo punto di vista, cioè da quello atletico, perché che ci sia un gap tecnico rispetto al miglior calcio continentale non c'è dubbio, però quello atletico è anche più inspiegabile, se vogliamo. Da Bologna Andrea, buongiorno. Buongiorno. Dica. Garanzini, no, io volevo solo dirle una cosa. Io ieri sera ero a Blackpool con degli amici e abbiamo seguito la partita insieme a loro. E non voglio assolutamente scusare Gattuso perché è stato un comportamento inqualificabile, però loro mi dicevano che Joe Jordan è una vecchia lenza sotto questo punto di vista, insomma. Nella Premier League più di una volta ha fatto perdere le staffe a qualche giocatore parlando e, diciamo, apostrofandolo in maniera abbastanza pesante. Tutto qui, la saluto e la spiego. Insomma, non voglio dubitare delle sue fonti, non risulta però nulla a carico di Joe Jordan nella documentazione di Lega inglese, nei documenti ufficiali, e gli inglesi al fair play tengono leggermente più che da noi. Se parliamo di recidive, allora parliamo anche dei comportamenti di Gattuso nei confronti un po' di tutti, no? Passati e soprattutto recenti. Un po' di tutti vuol dire avversari, arbitri e magari in questa occasione perlomeno, cioè quando siamo indifendibili, secondo me proviamo a guardarci noi senza badare agli altri, e credo che sia l'unica strada per provare a migliorarci sul serio. Luigi ha chiamato da Perugia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Senta, io volevo dire una cosa che forse va un po' controcorrente. Non riesco a capire tutta questa delusione o sconcerto per i risultati in Coppa dei Campioni. A me sembra che ci sia un po' di generale sottovalutazione delle squadre che affrontiamo, perché per esempio il Tottenham è una signora squadra, al momento sta sopra il Chelsea in campionato e il Chelsea è lo squadrone che tutti temevano soltanto a ottobre, e si è rafforzata poi rispetto allo scorso anno comprando un grande giocatore come Van der Vaart. Insomma, è una squadra che può giocarsela con il Milan nel risultato, mi sembra che abbia dimostrato anche l'andamento della partita che le due squadre si equivalgano. Lo Shakhtar Donetsk è una grande squadra in potenza, hanno comprato praticamente in Ucraina i migliori giovani brasiliani pagandoli anche parecchio, ed è la squadra un po' del futuro, è stata organizzata, creata proprio per una dimensione internazionale che sta ottenendo quest'anno. Insomma, la Roma fra l'altro ieri mi sembra abbia giocato un grandissimo secondo tempo per intensità, per volontà, l'ha detto anche Lucescu alla fine. Probabilmente, questa è una mia impressione, se il pubblico non avesse insistito per l'ingresso in campo di Borriello, che francamente mi è sembrato fuori partita sin dall'inizio, magari la Roma avrebbe anche potuto pareggiare. Se avesse pareggiato non sarebbe successo nulla di scandaloso. Credo che il calcio si sia un po' livellato a livello in Europa, e in fondo le spagnole due hanno giocato e hanno raccolto un punto, e sembrerebbe il calcio spagnolo il calcio ormai dominante, quindi mi sembra... Sì Luigi, però poi bisogna, i conti bisogna farli alla fine, bisogna vedere di queste squadre italiane e spagnole chi si qualifica. Quello che lei dice in parte è vero, però se lei mi dice che la Roma ieri ha giocato un grandissimo secondo tempo, allora stiamo parlando di due sport diversi o forse di due partite diverse. Io ne avrò vista una registrata, evidentemente non quella con lo Shakhtar di ieri sera, perché se quello è un grandissimo secondo tempo siamo veramente rovinati, ma soprattutto è rovinata la Roma. Mi auguro che non sia così, mi auguro che quello non sia il massimo che oggi si può permettere la Roma. Dopodiché è vero, c'è più equilibrio, c'è più livello, il Tottenham è una signora squadra, però è la quarta inglese attualmente contro la prima italiana, si gioca sul campo della prima italiana, se perdi, e perdi meritatamente e perdi legittimamente, insomma, io dico che non è un risultato positivo. Lo Shakhtar sarà una squadra in crescita, però se vince direttamente sul campo della Roma con un 3-2 che la mette praticamente al riparo da sorprese nel ritorno, credo che tanto tanto bene non siamo combinati. Chiederei a Roberto Di Pavia un po' di pazienza, perché subito dopo l'intervallo avremo l'aggiornamento del giovedì insieme a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore su alcune delle tematiche presenti, e la principale riguarda per l'appunto proprio la Roma. Adesso facciamo un intervallo per sentire come va sui mercati. Ieri in Senato si è parlato di stadi e se ne è parlato seriamente, anche perché era il Senato, dove in linea di massima, non con qualche eccezione, ma insomma si fanno in genere discorsi seri. Il problema è che non ho capito se questa legge sugli stadi, che sarebbe fondamentale per rilanciare il calcio, ma che da un'altra parte, insomma, da cittadino, forse, come dire, dovrebbe essere preceduta da altre migliorie strutturali più serie, per provare a mettere magari in sicurezza, che ne so, i terreni a rischio, piuttosto che migliorare il livello delle nostre ferrovie o quello che vogliamo, prima degli stadi. Insomma, le opinioni sono valide tutte in materia, almeno credo. Non ho capito se è stato fatto un passo avanti o un passo indietro, sicché non posso che farmi aiutare da Marco Bellinazzo dal Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno Gigi. E quindi? A Senato, diciamo, ne hanno parlato un anno e mezzo fa, nel senso che hanno approvato la legge nel primo ramo del Parlamento all'unanimità, poi questa legge è passata alla Camera, grosso modo nello stesso testo, e lì si sono accorti che, insomma, qualcosa non andava, che la semplificazione delle procedure per la costruzione di nuovi stadi, e beh, insomma, era un po' troppo semplificata, scusami il gioco di parole, ma si prestava forse a speculazioni, a mancata attenzione a tutta una serie di vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici, e dunque con queste motivazioni l'iter legislativo è rallentato. Ricordiamoci che questa doveva essere la legge che doveva supportare la candidatura dell'Italia agli europei 2016, che poi sono finiti alla Francia, anche perché questa legge non è stata approvata. In commissione cultura alla Camera ieri c'è stato un comitato ristretto, sembra che sia stato fatto un piccolo passo avanti, in realtà è un passo indietro, perché a differenza del Senato non si approverà in commissione questa legge, ma dovrà andare in aula, con tutti i pericoli che resti impallinata dal veto incrociato dei partiti e dal gioco politico. La legge sarebbe ovviamente fondamentale per il rilancio di tutto il movimento calcistico italiano, ovviamente ben venga la semplificazione, ma attenti a quelli che sono ovviamente i beni archeologici, ambientali, certo, e paesaggistici. Esatto. Ecco, allora che la domanda ci stava, perché non era ben chiaro, tu ci hai detto, insomma, si scrive passo avanti, ma si legge forse passo indietro, e questo... Se il comitato, la commissione non approverà entro febbraio, appunto, cioè... si va in aula e poi si andrà alle calende greche, visto lo scenario politico italiano, insomma. Molto bene, secondo capitolo, Unicredit. Allora, la vicenda Roma, sperando che tu mi senta, perché nel frattempo si sta scatenando l'altoparlante alla BIT, continuo a ripetere che stiamo trasmettendolo alla BIT dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in diretta ovviamente, essendo Radio 24 la radio ufficiale di questa fiera, di questa borsa. Unicredit sta... non solo è al tavolo, ma attualmente ho sentito dal giornale radio, anche che lo ha riferito Paolo Fiorentino, è a Trigoria e sta partecipando a un vertice con il presidente Sensi, presidente uscente, e con la guida tecnica e con la squadra stessa. In più, già stamane, quando la contestazione romanista si è scatenata con altrettanta forza rispetto a ieri, e con questo nuovo slogan che recita indegni, beh, insomma, pare che indegna sia stata considerata anche Unicredit, perlomeno per iscritto, perlomeno gli striscioni. Non è che per caso sta cominciando a capire il management di questa banca che con le squadre di calcio è bene andarci coi piedini di piombo? Forse se ne stanno rendendo conto. In ogni caso, la trattativa per la cessione della Roma è entrata nella fase più delicata, con il diritto di trattare in esclusiva concesso alla cordata americana di Thomas Di Benedetto. L'Unicredit avrà fatto tutte le sue valutazioni, e non posso dubitare di questo, sulla solidità finanziaria di questo gruppo. Questo gruppo, insomma, ha anche delle esperienze nel mondo dello sport, nel baseball, lo ricordiamo. Forse però è molto più semplice investire nel baseball in America che nel calcio in Italia, e se ne stanno rendendo conto, insomma. Vuoi dire. Senti, il terzo e ultimo capitolo per oggi è questo. Se non ho capito male, perché ripeto, qua sono un pochino scollegato dal mondo, la Corte UE stamattina avrebbe, poi tu ci confermi, vietato le esclusive per mondiali ed europei da parte di Pay TV, cioè avrebbe obbligato, sempre se non ho capito male, da ora in poi a subcedere, immagino, i diritti o parte dei diritti, questo non lo so, televisivi acquistati da una Pay TV a TV che possano trasmettere in chiaro, per ragioni evidentemente che definirei sociali o parasociali. Corrisponde? Diciamo che la Corte di Giustizia Europea ha sancito un principio, poi sarà ai singoli stati come dire, adeguarsi o meno, e cioè che non solo le partite principali di europei e mondiali, cioè le partite inaugurali, la finale, la semifinale, oltre ovviamente quella della squadra padrone di casa, insomma della squadra nazionale, dovranno essere trasmesse anche in chiaro, ma anche le altre, perché c'è un interesse pubblico, evidentemente un interesse generale che va tutelato. Ora, chiaramente potrà avere un impatto questo principio nuovo sulla concessione dei diritti TV in esclusiva, per esempio a Sky, che trasmette, insomma, anche che ha trasmesso e trasmetterà i mondiali in esclusiva, salvo cedere le partite principali alla Rai. Non so se a questo punto la normativa italiana sarà ritenuta inadeguata e quindi il legislatore interverrà. Magari sì, ma lì forse per altre motivazioni, insomma, ora non voglio scendere nel dettaglio politico della vicenda, ma per il momento io credo che non accadrà nulla, anche perché c'è un ricorso di FIFA e UEFA contro questa decisione, e seguiremo, come ovviamente facciamo sempre, anche questa vicenda. Certo. Marco, grazie per questi interventi puntuali, come sempre. Grazie a voi e buon pomeriggio. Chiudiamo allora il collegamento con il Sole 24 Ore e continuiamo qui dalla BIT di Milano. Un paio di messaggi, per esempio Gianluca da Bergamo scrive: voglio esprimere solidarietà a Rise per l'errore di ieri sera. Possibile che una scivolata non sia più tollerata nel calcio di oggi? Capita di scivolare anche solo passeggiando per strada. Lo so Gianluca, ma magari A, non coi tacchetti, B, non quando ti sei portato ad andatura turistica un pallone in una certa zona del campo. Dopodiché, certo, la disavventura di scivolare capita a chiunque, anche con i tacchetti, in qualunque partita e a qualunque livello. Però ragazzi, se già sei reduce da un periodo in cui la vecchia fatica e ti trascini per il campo come si trascina Risa in questo periodo, insomma, è inevitabile che la scivolata fatale diventi ancora più, no, più censurabile, o comunque faccia ancora più sensazioni. Diego invece scrive: il comportamento di Gattuso è senza scusanti, particolarmente perché capitano, anche perché le curve non hanno davvero bisogno di esempi simili, però i titoli dei giornali inglesi non sono accettabili, fanno davvero male. E secondo me Diego ha centrato la sintesi di questo caso. Tocca a Sergio dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Buongiorno Granzini. Sì. Ascolti, noi volevo parlare un attimino di portieri, perché ieri, vedendo la partita dell'Arsenal col Barcellona, ho visto la differenza tra il portierino dell'Arsenal, che sicuramente ha fatto una partita perfetta, e il non portiere del Barcellona, perché io lo dico così, visto che Barcellona potrebbe giocare anche senza portiere, visto la squadra che ha. E quindi penso che bisogna avere per forza un portiere all'altezza per giocarsi queste partite che sono decisive comunque. Mm. E penso che il portiere sia, secondo me, uno dei giocatori più importanti per una squadra. Quindi... Su questo direi che non c'è dubbio. Io, Valdés, secondo me, è reduce da un paio di stagioni e mezza non positive ma eccellenti. E io avevo qualche perplessità personalmente sul suo conto tempo fa, le ho superate, e sono convinto che sia invece un grande portiere, perché oltretutto quando viene chiamato in causa raramente, e a lui capita questo, lui si fa quasi sempre trovare pronto, dopodiché una serata, secondo me nemmeno proprio storta, ma insomma una serata comunque non particolarmente felice, credo possa capitare a tutti. Buon per l'Arsenal, che invece il loro portiere di sera ha fatto le uova, ma non sarei così severo nei confronti di Valdés, che invece secondo me il suo posto in una squadra fenomenale come il Barcellona lo merita a pieno titolo. Gianni ha chiamato dalla Svizzera, leggo bene Gianni? Sì, dottor Garanzini, salve, buongiorno. Sì. Da dove esattamente? Lugano. Beh, insomma, un minimo di internazionalità in più, visto che noi trasmettiamo dalla Fiera Internazionale del Turismo. Dica. Ah, bene. Dunque, io sono tifoso milanista e volevo dare un mio piccolo parere su un'analisi che ho fatto. Secondo me, innanzitutto, al Milan manca, di fondo manca velocità, cioè ci mancano i Cafu, i Kakà, questa gente che comunque dava una profondità che sì, Abate, Antonini corrono, ma insomma la qualità è un'altra cosa. E poi altra faccenda riguarda Allegri, che secondo me non so, la sensazione è che non abbia in mano una squadra, perché Ibrahimovic sì, per l'amor di Dio, è un talento straordinario, ma comunque sembra che sia un po' il capetto e decida, non voglio dire la formazione, ma comunque l'attacco, il suo reparto. E poi quanto è successo con Gattuso, con Flamini, cose che non sono da Milan, insomma, ecco, questo bravo, cose che non sono da Milan, su questo credo che tutti si possa essere d'accordo. Ibrahimovic è una grandissima risorsa, una grande risorsa per una squadra, lo dimostra tutta la sua carriera. Può diventarne anche un limite quando la squadra si sterilisce a far passare attraverso Ibrahimovic tutti i treni che passano. È come se gli scambi si bloccassero, no? Gli scambi ferroviari, e ci fosse quell'unico binario che contempla il passaggio per Ibrahimovic. Diventa più dura giocare così, indubbiamente. Purtroppo la sua personalità, come dire, un po' egocentrica, nei momenti meno felici di una squadra produce anche queste conseguenze, e si era già visto in passato, perché era già accaduto per esempio anche all'Inter. Facciamo l'ultimo intervallo di oggi per strade e autostrade. Torniamo con altri ascoltatori, con delle voci ereditate da ieri da ascoltare, con la rubrica, tanto per cominciare, di Nicola Filippone, per sentire che cosa ha trovato per questo giorno nella storia dello sport. Sembra ieri. 17 febbraio 1971, ritorno dei quarti di finale dell'ultima edizione della Coppa delle Fiere. La Juventus gioca in Olanda, ospite del Twente, forte del 2-0 ottenuto all'andata. Ma il piccolo stadio è una bolgia e spinge il Twente all'impresa. I tempi regolamentari si chiudono sul 2-0 per gli olandesi. Nei supplementari però sale in cattedra Anastasi, capace di realizzare una doppietta in soli 2 minuti. Prosegue così con successo l'esperienza sulla panchina bianconera di Čestović Pálek, che pochi giorni prima aveva assunto l'incarico di allenatore al posto di Armando Picchi, costretto a lasciare per motivi di salute. La Juventus arriverà fino alla finale della Coppa delle Fiere, finale in cui sarà sconfitta dal Leeds. Čestović Pálek, un grande signore di altri tempi, zio tra l'altro di Zdeněk Zeman, che fu lui stesso ad avviare sulla strada del calcio, della direzione tecnica di una squadra già in giovane età. Un attimo di pazienza a Marco e a Giampiero, che sono già collegati. Arriva una voce dall'UEFA, al momento non ufficiale, mi segnala Franco Piantanini dalla redazione, per cui quello di Gattuso è comportamento antisportivo, e questo vuol dire, io credo, l'anticamera è una squalifica davvero, davvero pesante. C'è una non buona notizia anche per l'Inter oggi, se non altro sul piano dell'immagine, perché l'Inter è stata deferita per il trasferimento dello scorso anno di Pandev. È una vicenda un tantinello complicata che si chiarirà meglio nei prossimi giorni, però anche in questo caso c'è stato, secondo questo deferimento, un comportamento non perfettamente sportivo dell'Inter nei confronti del giocatore Pandev, e indirettamente o forse molto direttamente nei confronti della Lazio, che non a caso all'epoca se n'era pesantemente lamentata. Allora, prima degli ascoltatori già prenotati, più che rivisitare ieri, io direi tutto sommato di proiettarsi su quello che andrà in scena tra poco più di 4 ore al San Paolo, e quindi di sentire la vigilia di Napoli-Villarreal nelle parole di Mazzarri. Per loro è la partita dell'anno, ho letto, quindi questo fa sì che la sfida sia ancora più interessante da parte nostra. Sempre per coerenza bisogna ammettere che questa crescita di cui abbiamo sempre parlato sta avvenendo in modo importante, no? Abbiamo superato un esame, si era detto alla vigilia, la partita con la Roma era un esame importante in quanto alla crescita, alla nostra maturità, e l'abbiamo superata a pieni voti. È una sfida in una competizione diversa, diciamo così, allo stesso pari di quella che è stata appunto quella in campionato con la Roma. Ogni volta siamo curiosi noi stessi di vedere cosa saremmo capaci di fare, insomma, di volta in volta. È una scoperta continua effettivamente quella del Napoli, che adesso ha un vero tour de force, indubbiamente, perché stasera l'andata con Villarreal, poi la partita di campionato col Catania, poi il ritorno con Villarreal e poi la trasferta decisiva di San Siro. Beh, insomma, non sarà facile, no? Con un organico che poi alla fine non è così esiguo, ma lo è se si vuol puntare sui veri grandi giocatori di qualità. Sentiamo Marco dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io volevo farle 2 domande. se secondo lei il momento, diciamo, delle squadre italiane ogni gennaio e febbraio può essere determinato dalla pausa invernale e dalle preparazioni atletiche esagerate. E poi una seconda considerazione, poi, se il mercato di riparazione per le nostre squadre non è più un difetto che un pregio, perché cercano tutte di cambiare giocatori. La ringrazio e l'ascolto per radio. Il mercato di riparazione è un difetto per il calcio, cioè un difetto no, ma insomma è un, secondo me almeno è un limite per la credibilità del calcio, perché gli esempi possono essere tutti quelli che vogliamo, ma insomma Pazzini che fa gol, non tanto la Fiorentina che ha lasciato da tempo, ma Pazzini che fa gol o che facesse gol alla Sampdoria, ma facciamo pure Matri che fa gol al Cagliari, meno di una settimana dopo aver fatto gol per il Cagliari, secondo me al calcio non fa bene, ma questo non riguarda ovviamente né la Juventus, né il Cagliari, né l'Inter, né la Sampdoria, perché mi immagino già i messaggi che arriveranno da parte di chi non capisce che tifo fa male. Evidentemente è un discorso generale. Io credo che il mercato di gennaio nuoccia al calcio in generale, che nuoccia alle società in particolare no, perché chi invece queste riparazioni riesce a gestirle in maniera saggia e davvero a colmare delle lacune anziché semplicemente buttare fumo negli occhi al pubblico, ogni tanto in certi casi ne ricava anche un vantaggio notevole. Mi pare che il caso di Matri sia abbastanza evidente, il caso dell'Inter di Ranocchi e Pazzini lo è almeno altrettanto, e quindi bisogna sempre distinguere tra queste due cose. Se la pausa invernale sia nociva, ma non lo so, direi di no. C'è più pausa invernale di quella degli ucraini, che ha fatto 70 giorni e ieri hanno nascosto la palla alla Roma anche sul piano atletico? Io non credo, sinceramente. Gian Piero sì, ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Io innanzitutto sono d'accordo su questa anomalia, sono d'accordo con lei su questa anomalia del calcio invernale, che voglio dire, forse si potrebbe trovare, del calciomercato invernale, mi scusi, forse si potrebbe trovare una via di mezzo aprendolo solamente ai campionati stranieri, nel senso che così non si creano quelle situazioni come lei ha appena citato, di un Matri che segna alla squadra dove aveva giocato fino a qualche giorno prima e cose analoghe. Io poi volevo fare un inciso che lei probabilmente potrà considerare stucchevole sulla questione del comportamento di Gattuso. Secondo me è un comportamento assolutamente deprecabile. Io sono milanista, io mi auguro veramente, cioè auguro per il calcio e per il Milan anche, no, che voglio dire, questa cosa venga sanzionata come si deve, però non sono d'accordo nel far passare il messaggio secondo cui, a fronte di un comportamento deprecabilissimo e gravissimo, non si debba comunque condannare anche l'eventuale comportamento antisportivo che ha ottenuto il secondo allenatore del Tottenham, che comunque... Ma può essere Giampiero, però non vediamo di non confondere mai il dito con la luna, secondo me, vediamo di non mischiare troppo le cose. Una delle prime virtù che un professionista deve avere è quello di essere sordo in qualsiasi campo, a qualsiasi latitudine e in qualsiasi situazione. Se una parola detta a bordo campo o una frase urlata a bordo campo, in quel frastuono oltretutto, è il pretesto per una reazione di quel genere, io direi che non ci siamo proprio. Ettore, provincia di Frosinone, ma in 30 secondi. Ettore, dica. Ettore, ultimo appello. Credo che il rumore di fondo della B di Milano abbia sovrastato anche le possibilità di Ettore di intervenire. Lo richiameremo in una prossima occasione. Vi ricordo che dalla BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, di cui Radio 24 è partner, abbiamo trasmesso in diretta questa puntata di A Tempo di Sport, per cui ringrazio i due registi, Filippo Eureggi in sede e Paolo Corleoni qua dalla BID di Milano, i due assistenti Franco Piantanida e Claudia Carusi, e poi Davide Ciocia e Elena Ligios, che sono le anime di questa pattuglia che resiste in questo stand, insomma, diciamo, non proprio perfettamente insonorizzato, da cui vi saluto e vi auguro buon pomeriggio.